Due agenti della Polfer subito nell'ultima carrozza. Scusi, cosa hanno detto l'altoparlante? Due agenti della Polfer nell'ultima carrozza, subito. Beh, cosa c'è di strano? Beh, siamo in treno, siamo su un Intercity, stiamo per arrivare a Firenze, su questo tipo di treni ci sono sempre due agenti della polizia ferroviaria. Può essere capitato che un viaggiatore non stia bene, o non abbia pagato il biglietto, non abbia nessuna intenzione di pagarlo, o abbiano trovato una valigia abbandonata, che ne so, stia accadendo qualcosa di inconsueto o di grave che richiede per motivi di sicurezza la presenza dei due agenti. Il capotreno ha bisogno di aiuto e chiama usando gli appositi microfoni. Tutto bene dunque, tutto chiaro. Tutto bene e tutto chiaro, ben inteso, se non foste, come ero io, esattamente nell'ultima carrozza. Era una di quelle carrozze aperte, non divise in scompartimenti, per cui ciascuno di noi poteva vedere ovunque. Eravamo appena in 9, uno di fronte a me e altri tre nel reparto non fumatori, altri 4 erano disseminati nel reparto fumatori dall'altra parte, ma c'era il vetro divisorio, si vedeva, nessun altro. Dalla porta in fondo, fra una galleria e l'altra, vedevamo correre le rotaie. Dalla partenza, in pratica, era stato rispettato rigorosamente quel principio che esige la disattenzione sociale come sacrosanto diritto per convivere senza dannarsi reciprocamente, no? Un cenno del capo al mio dirimpettaio, lui ha fatto altrettanto. Poi entrambi ci siamo buttati nelle rispettive letture. Ogni tanto gli ho sbirciato i calzini, la piega dei pantaloni, l'ho colto una volta che barcollava nel dormiveglia, lui avrà fatto altrettanto con me. Si sarà divertito a dedurre dal libro che leggevo e dai miei abiti il mestiere che faccio. Degli altri nulla. Ecco, sì, una era una signora. Per dire che nessuno si era occupato degli altri, che ciascuno di noi sembrava garantito in una sorta di immunità percettiva reciproca, no? Fino al momento dell'annuncio all'altoparlante. Qualcuno ci ha messo qualche secondo più degli altri a fare 2 più 2, ma in mezzo minuto eravamo tutti e 9 lì, in piedi, a guardare a destra e a sinistra, a guardarci l'uno nell'altro, a verificare se nelle mani non avessimo nulla di strano, se abiti e atteggiamenti fossero consoni al luogo e alla situazione. E improvvisamente ci siamo ritrovati come un film western nel momento della carneficina finale, no? Tutti contro tutti, senza il tempo di farci alleati, senza sapere chi avrebbe sparato per primo. Il messaggio è stato chiaro. Occorrono 2 agenti della polizia ferroviaria nell'ultima carrozza e questa è l'ultima carrozza. Qualcosa ci sfugge. Deve esserci un'anomalia, o meglio, un pericolo che ci sovrasta. Siamo tutti lì, rigidi, tesi, vagamente interrogativi, nessuno ha più il coraggio di risedersi e tornare alle occupazioni di prima. Il mio dirimpettaio mi guarda e io dico... L'ultima carrozza, nonostante ultima sia categoriale, è questa. Fino a che c'è la locomotiva è difficile che qualcuno cominci a contare dalla parte opposta. Lui mi guarda, non ha capito, ma ha capito che può azzardare un sorriso e dire: adesso entra uno, si mette a gambe larghe in mezzo al corridoio e tira fuori 2 revolver. È in questo momento che invece di arrivare i 2 agenti della polizia ferroviaria, come ci sarebbe stato ad aspettarsi, arriva davvero un tizio. Alto, lungo e magro, dallo sguardo inquieto, palesemente. Percorre tutta la nostra carrozza, arriva in fondo, guarda oltre il vetro le rotaie che se ne vanno, guarda verso di noi che lo guardiamo impietriti, stringe le labbra e scuote la testa come dicesse «ma». Ripercorre il corridoio in senso inverso e scompare. I 2 agenti della polizia ferroviaria non arriveranno mai. I viaggiatori dell'ultima carrozza si sono ricomposti e hanno fiatato di sollievo entrando nella stazione di Firenze. Ho messo via il mio libro, ho detto al mio dirimpettaio, ci ha risparmiato. E mentre mi apprestavo all'uscita, ho riflettuto sulla funzione ideologica degli allarmi. Nel 1984 di Orwell il regime del Grande Fratello, raccontando quotidianamente le cronache di una guerra infinita e fittizia, otteneva la subordinazione delle masse obbedienti nell'emergenza. L'altro giorno, sul treno, il potere era nelle mani di un ferroviere che si è sbagliato o che ha cambiato idea. La tensione che ha ingenerato, pronta a trasformarsi in paura, avrebbe potuto far scaturire davvero un episodio per cui sarebbero poi stati necessari i due agenti, secondo il modello delle profezie che si autodeterminano. È soprattutto quando un pericolo non c'è, o meglio quando non può essere constatato da chi lo corre, che l'allarme ottiene il massimo dei suoi effetti sociali.